Mix 24 di Giovanni Minoli. Es gibt nur einen Idioten. Es gibt nur einen Idioten. I risultati delle elezioni amministrative danno un sonoro schiaffo ad Angela Merkel, bocciando la sua politica di accoglienza sui migranti. Alla Merkel dice: non cambia la nostra linea sull'accoglienza. C'è un elettorato tedesco per il quale il milione di profughi arrivato in Germania nel 2015 rappresenta una minaccia e un pericolo. Ambasciatore Romano, buongiorno. Buongiorno. Il voto regionale in Germania è un segnale chiaro a Angela Merkel. La politica sui profughi ha creato un malcontento. La cancelliera, secondo lei, cambierà linea o no? Ha detto che non la cambierà. Io ho l'impressione che qualche correzione ci sarà indubbiamente. Angela Merkel è troppo accorta, è troppo calcolatrice, qualcuno ha detto che è troppo opportunista. Non so se questa espressione sia giusta, sia corretta nei suoi confronti, ma certamente è una donna che sa calcolare le difficoltà. Anche la CDU però è divisa sul tema, infatti, no? Anzitutto la CDU è sempre stata divisa, perché la CDU bavarese, vale a dire la CSU, è sempre stato un partito molto più conservatore, ai limiti con il reazionario. Aveva un grande leader negli anni 60-70 che si chiamava Strauss, sì, il quale diceva sempre che lui non voleva avere un partito sulla sua destra, perché era lui in qualche modo l'estrema destra. Allora l'estrema destra tedesca, e questo gli dava le soddisfazioni desiderate. Ecco, lei sul Corriere ha scritto: conosciamo bene gli sconfitti, ma non conosciamo i vincitori. Ecco, può essere considerato un partito di estrema destra il partito dell'AfD? Ma è un paradosso. Il partito è nato quando fu fondato da alcuni economisti fondamentalmente liberali, liberali liberisti, contrari alla moneta unica, euroscettici, ma certamente liberali. Tutto poteva essere imputato a loro, fuorché la xenofobia e il nazionalismo, che hanno cominciato a catturare, a conquistare il partito nel corso del 2015. Questa signora, la signora Petri, che lo dirige, in realtà è arrivata al potere strappandolo ai suoi fondatori, ai fondatori del partito. Quindi dandogli un'altra anima. Ma dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in Germania non c'era mai stata però una destra così forte, a parte appunto Strauss, che però aveva queste caratteristiche che lei diceva. È una tendenza mondiale, pensando anche al populismo di Trump, o è un fenomeno più europeo? No, è una tendenza più generalizzata, certamente estesa agli Stati Uniti, e di questo siamo consapevoli ormai durante la campagna elettorale ogni giorno. Quanto alla destra tedesca, non c'è dubbio, esiste una minoranza tedesca razzista, xenofoba, con delle nostalgie hitleriane più o meno confessate. Però quello che mi ha sempre colpito è la fermezza, è la, come dire, è la chiarezza con cui le istituzioni tedesche hanno sempre reagito. Ecco, il 18 marzo ci sarà un altro vertice europeo dedicato all'immigrazione. L'accordo con la Turchia non sta funzionando. Come si fa a convincere Erdogan a rispettare i patti? È possibile, secondo lei? Ma a questo punto mi chiedo persino se sia giusto, voglio dire, cercare di convincere Erdogan. Cioè, convincere Erdogan significa contrarre un debito con lui, affidargli un credito, per così dire, perché a quel punto lui può chiederci. Può chiedere di entrare nell'Unione secondo le sue, come dire, le sue esigenze. Naturale. E poi, tra l'altro, siamo davvero sicuri che il problema sia quello? Sì, certamente se Erdogan prendesse un certo numero di profughi o impedisse a loro di passare la frontiera con la Grecia, le cose sarebbero più semplici. Ma il vero problema è a casa nostra. Noi abbiamo in qualche modo distrutto qualsiasi principio di solidarietà, perché la regola a cui si attengono in materia di immigrati i membri dell'Unione Europea, alcuni membri, quelli dell'area centroeuropea e balcanica, e i miei interessi anzitutto. Prima di tutto. Poco importa se quello che, quando io caccio i profughi, l'Europa così, l'Europa così non ha nessuna prospettiva, nessuna speranza. No, certamente. E in qualche modo tutte le volte che cediamo di fronte a questi paesi con le loro pretese, finiamo per accentuare questo aspetto di mancanza di solidarietà che è diventato così evidente. Nel ecco, mondo. Ma la politica estera di Renzi su questo piano è un divaga? Ma sì, devo dire che anche lui deve barcamenarsi. Certo, naturalmente. E questo lo vediamo in tutti i paesi. Devo dire che Renzi, quando ha adottato la linea della flessibilità, come dire, ha suonato un tasto che era non soltanto italiano ma anche europeo. Hollande è schierato con lui e ormai il numero dei paesi che puntano sulla crescita, anche a danno di certe regole troppo severe, troppo rigorose, che piacevano ai tedeschi. No, tutto sommato non direi, il tono di Renzi qualche volta può anche spiacere, infastidire, è un po' sempre monellesco per così dire, sì. Ma però sto dicendo le cose giuste. Sì. Senta, è finita la stagione quindi del multiculturalismo europeo e quindi sta finendo l'Europa, perché poi alla fine se non c'è un collante c'è la disgregazione. Sì, devo dire che è stata messa alle prove nelle peggiori delle condizioni possibili, perché sì, la politica del multiculturalismo poteva anche funzionare finché i numeri erano diversi, finché le statistiche erano diverse. Oggi di fronte a una tale dimensione è chiaro che anche le migliori delle intenzioni vengono messe in discussione. Ecco, sulla stampa internazionale, ambasciatore Romano, si parla sempre più spesso di una situazione simile a quella degli anni 30, è davvero così? No, non assolutamente no. Quello veramente mi sembra un confronto totalmente sbagliato, anzitutto per una ragione molto semplice, quasi banale, che ormai tutti conoscono i risultati di quelle scelte autoritarie che furono fatte da un certo numero di paesi europei negli anni 30. Siamo davvero vaccinati, nel senso che siamo tutti consapevoli del declino delle democrazie. Le democrazie sono certamente malate e ce ne danno la prova ogni giorno. Certo. Ma c'è davvero qualcuno che ritiene che la soluzione autoritaria prometta qualcosa di meglio dopo le esperienze che abbiamo fatto, dopo i regimi autoritari e totalitari che hanno in qualche modo caratterizzato gli anni 30 e che ci hanno portati a... Quindi lei dice, di fronte a questo pericolo siamo definitivamente, come dire, liberi da questo rischio? Ma direi di sì, si può sempre essere smentiti naturalmente, certo. Ma quello che mi ha sempre colpito è il fatto che messi di fronte poi alla fine, parlo dell'Europa in questo momento, certo, messi di fronte alla scelta smontare quello che è stato costruito o andare avanti, siamo sempre andati avanti. Con la difficoltà di trovare però lo scenario di prospettiva. Perché naturalmente, e questo è un altro fattore importante di cui occorre tenere conto, è più facile costruire qualcosa di nuovo e quindi sfidare gli umori conservatori dell'opinione pubblica se economicamente al tempo stesso si cresce. Certo. Se tutti in qualche modo sono il giorno certo, dopo un po' meglio. Meglio di quanto fossero il giorno prima. Invece noi in questo momento stiamo cercando di costruire l'Europa partendo dalle condizioni peggiori. Ah. Sì. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Insomma, oramai Mario abbiamo perso il conto dei vertici europei straordinari sull'immigrazione. Ecco, che rischi corre l'Italia adesso? Dunque, non intanto abbiamo un vertice molto delicato, una 2 giorni che parte domani. Sì, vabbè, 17-18, l'ennesimo, l'ennesimo. E Renzi deve giocare la sua partita. La deve giocare, paradossalmente, se pensiamo a quello che è successo nelle settimane scorse, al fianco della Germania. Perché la Germania è lo Stato che accoglie più profughi in assoluto, certo, inarrivabile, un milione, noi 25.000, tanto per dire, questi sono i numeri più o meno. E quindi noi dobbiamo essere alleati dei tedeschi, perché se i tedeschi, come io penso, cambiare, e come anche Romano, che era anche ottimista nel suo articolo sul Corriere della Sera, ha detto, quindi se i tedeschi cambiano politica, per noi è un bagno di realtà molto positivo grande. No, No. O meglio, sì, dal punto di vista della realtà, presa in carico della realtà. Pietrangelo, tu cosa pensi? Che dobbiamo appoggiare la linea di Berlino o ci sono alternative? Beh, l'alternativa dovrebbe essere, potrebbe essere quella di fare al modo dell'Ungheria, e non nel senso di erigere i muri, ma nel senso che l'Ungheria da lungo tempo ormai ha stabilito un rapporto conflittuale con l'Europa, ha mandato a quel paese il Fondo Monetario Internazionale, sta facendo una politica che molti trattano soltanto con i modi dell'esorcismo e non dell'analisi, ma è un'alternativa impraticabile in Italia per un semplice motivo, che l'Italia ha quel deficit di sovranità che non le consente alcuna azione. Ci sarebbero i morti per strada, figuriamoci se, non dico l'Europa, perché l'Europa non esiste, ma figuriamoci cosa farebbero i veri padroni d'Italia, gli americani, in una condizione simile. Non bisogna dimenticare che i guai, i disastri e le disavventure della signora Merkel e della signora Germania dipendono molto dal fatto di avere disturbato non poco il vero manovratore della scena internazionale. Ecco, noi torniamo allora alla Germania, alla Merkel, con Veronica De Romanis. Buongiorno, economista, autrice del saggio Il caso Germania, così la Merkel salva l'Europa. Ecco, De Romanis, lei, biografa di Angela Merkel, possiamo dirlo, la riconosce nella reazione psicologica alla sconfitta? Beh, sì, è molto nel suo stile, non ha drammatizzato, ma in realtà a me non sembra una sconfitta, perché se si sommano i voti che ha preso il suo partito, i voti che hanno preso i socialdemocratici e i voti dei Verdi, che hanno tutti appoggiato la sua politica delle porte aperte, in realtà si tratta dell'80% degli elettori che hanno votato sì. Insomma, se poi guardiamo i futuri governi, la Merkel continuerà a governare. Vabbè, sul piano locale è difficile considerarla una vittoria, no? Mi pare. Anche sul piano locale continuerà a governare in Sassonia, probabilmente entrerà nel governo sia del Baden-Württemberg che della Renania, quindi non la definirei esattamente una sconfitta. Bello della un successo parziale. Beh, se uno vince qualcuno perde. Senta, ma psicologicamente e politicamente la svolta sull'immigrazione secondo lei è definitiva, oppure, come dice anche Romano, dice anche Mario, insomma, forse qualche aggiustamento ci sarà? Ma qualche aggiustamento lo farà, ma lei è stata molto chiara in conferenza stampa lunedì dopo le elezioni, si continua con questa linea, ha fatto un esempio molto preciso, ha detto: guardiamo cosa succede dopo la chiusura della rotta balcanica, che sicuramente, in quello è stata onesta, alla Germania porta un vantaggio, perché oramai il flusso di arrivi è ridotto a 200 persone al giorno, molto meno dei 1000-2000 che arrivavano all'inizio in Germania. Però lei dice, in fondo, se guardiamo quello che succede in Grecia, non è una soluzione, quindi ha detto mille volte, i muri non servono. Certo, ma se dovesse definire il carattere della Merkel con tre aggettivi, lei quali userebbe? Sicuramente è pragmatica, è analitica, questo perché è una scienziata, è prudente ed è lenta normalmente a prendere le decisioni. Questo non è avvenuto nel caso appunto della politica per l'immigrazione, ma aveva già avuto un atteggiamento simile in passato sul nucleare, quindi quando si tratta di argomenti che la toccano molto da vicino, l'ambiente e appunto i diritti di chi fugge dai regimi senza libertà, lì devo dire agisce in maniera molto più veloce. Quindi secondo lei rimonta questa vittoria, che non è una sconfitta, secondo lei, mantenendo la stessa linea? Ma sì, anche perché le elezioni regionali in Germania non hanno questa grande importanza. Ora, noi abbiamo tutti puntato i riflettori perché c'è il problema dopo i fatti di Colonia, le immigrazioni, ma lei le aveva già perse le elezioni regionali prima del 2013, quando ha rivinto per la seconda volta con un ottimo risultato. Io penso che l'economia è dalla sua parte, ricordiamoci che I dati sono favorevoli, con 1.7 e ora la stima per il primo trimestre è 0.6, quindi insomma l'economia corre. Senta, chi è la Petri? La Petri, come diceva Romano, è una signora che ha in comune con la Merkel un background scientifico e il fatto che è cresciuta nell'est. Ha preso il partito AfD, lo ha trasformato da un partito più di élite, anti-euro, anti-salvataggio, anti-finanziamenti alla Grecia, tanto come diceva l'ambasciatore, in un partito tutto estremista, dove l'accento è sull'immigrazione. È un partito del no per ora, quindi no immigrati, no Islam, no euro, no Europa. Vediamo se riuscirà a creare un programma di più ampio respiro. Per ora parla di sicurezza interna e di politiche della famiglia, ma ancora molto vago. Senta, in Germania sotto accusa oltre a Merkel c'è adesso anche il presidente della BCE, Draghi. Perché? Beh, perché i tassi bassi penalizzano i risparmiatori. I tedeschi sono dei risparmiatori, hanno oltre 2.000 miliardi nei conti, nei depositi, e questo significa che nei prossimi 5 anni, se facciamo una stima così un po' rozza, significa perdere oltre a 240 miliardi di euro. Ma è in interessi. È un attacco che può avere un esito contro Draghi o no? No. No, no, la BCE è indipendente e perderebbe credibilità. Ecco, un'ultima cosa, De Romanis, da economista, come giudica le ultime decisioni di Draghi sull'euro come presidente della BCE? Beh, sono mosse necessarie, Draghi deve fare. Erano obbligate, mosse un po' obbligate. Deve riportare l'inflazione al 2%, la deflazione, come sappiamo, è molto più pericolosa dell'inflazione, non c'era altra scelta. Sì, ma queste mosse sono nella direzione giusta, otterranno il risultato, diciamo? Vedremo, vedremo. Beh, bisognerà, certo. bisognerà aspettare. Ma ne ha ancora di cartucce Draghi da sparare o le ha sparate tutte? No, ne ancora, certo. Ricordiamoci che in America la quantitative easing è durato almeno 6 anni. Mm. Grazie De Romanis, 800-24-0024, numero verde 349-238-6666. L'SMS, ecco Mario, indubbiamente il quadro politico si muove, sì. Ma diciamo in due parole come, secondo te? È sempre in tripartito, no? Poi sono i sistemi elettorali che cambiano. In Italia ci sono 3 forze politiche, adesso le conosciamo tutte, non le elenco. In Germania sta nascendo appunto AfD, che si candida a diventare una terza forza politica, addirittura lì c'è una frammentazione anche più ampia se guardiamo. Però c'è un sistema elettorale anche lì che funziona, poi c'è il meccanismo della Gross Coalition che è sperimentato nella storia, certo, sì. Equilibra. Risolve in Spagna è inutile raccontarvi cosa è successo. Adesso il caos, il caos totale con Podemos. La situazione inglese sarebbe, dal punto di vista della mappa politica, tripartita ampiamente, ma anche lì il sistema elettorale corregge e UKIP non entra a Westminster. Quindi il sistema elettorale fa molto indubbiamente. Però la frammentazione e la ricomposizione dei poli è un processo in atto. Però diciamo che l'Europa come sogno, come obiettivo finale, Mario, mi sembra sempre più lontano. Tu lo so che sei assolutamente d'accordo su questa linea. Mario, parlo con Pietrangelo. Tu sei Pietrangelo, io sono Mario. Oppure tu sei Mario, io sono Pietrangelo. Perché? Decidiamo. No, non ho detto Pietrangelo. Hai detto Mario, ma va bene. Vabbè, ma pensavo Pietrangelo. Avendo presente la carta geografica e volendo individuare l'Europa, notiamo due fondamentali assenze. È inimmaginabile pensare di costruire l'Europa senza il Mediterraneo, e di fatto l'Europa così com'è esclude il Mediterraneo, tra parentesi esclude l'Italia, la esclude nella sostanza. Inimmaginabile poi fare l'Europa senza la più potente e importante nazione europea. Non sto parlando della Gran Bretagna, sto parlando della Russia. Di fatto è questa la situazione. E lo stallo da sempre si è stabilito perché ci si dimentica di un dettaglio, ahi noi, tragico. È il risultato di Yalta. Ancora una volta, pur non essendoci più le condizioni che a suo tempo si stabilirono a Yalta. E quindi... è così. Gianpaolo Musumeci, che è giornalista, fotografo, videoreporter, autore con Andrea De Nicola del libro inchiesta Confessioni di un trafficante di uomini. E parliamo del concreto, di quello che capita in realtà su queste rotte della tragedia. Musumeci, ecco, sta per arrivare l'estate. Domani, dopodomani, l'abbiamo detto, un ennesimo vertice sull'immigrazione. Ma quali sono le principali rotte e come cambiano le rotte dei trafficanti di uomini oggi? Il problema è che oggi possiamo anche tracciare le principali rotte, ma domani saranno diverse. Chiudiamo la rotta balcanica, si riaprirà quella libica. Infatti, la libica si fa pericolosa e si riapre quella del Mediterraneo a est, Turchia, Grecia. Mentre l'Europa perde tempo a fare summit, i trafficanti di uomini si organizzano molto molto più velocemente. Ecco, cercheranno uno sboccamare verso la Puglia, per intenderci? È possibile, anche se dalle fonti giudiziarie che ho sentito anche molto recentemente, sono arrivati piccolissimi battelli, quindi gommoni fondamentalmente, quelli che venivano usati dalla mafia albanese per il contrabbando di tabacco. Ecco. Qualcuno che lavorava attorno alla Sacra Corona Unita negli anni 90 pare abbia odorato il business e abbia provato, come dire, ad avvicinarsi. Però non c'è un'entrata, un ingresso sistematico della nostra mafia su quel business. Tutte le rotte sono potenzialmente valide. È un problema di opportunità, il criminale fiuta l'opportunità. Se la rotta è più debole, più facile, più remunerativa per lui, allora siamo sicuri che la abbraccerà. Ecco, i controlli in mare in Italia hanno funzionato, non in Grecia. Immagino che i trafficanti si faranno più furbi, insomma, e quindi le nuove rotte quale possono essere le più remunerative? Ma possiamo immaginarne? Ma io intanto mi immagino comunque forse non nel brevissimo termine, ma una ripresa della rotta libica. Alcuni dei clienti, dico clienti perché dal punto di vista dei trafficanti i migranti sono clienti, certo, che noi possiamo trovare a Istanbul e poi o a Idomeni o a Lesbos o a Lampedusa, spesso sono gli stessi che fanno viaggi lunghissimi a seconda delle opportunità e delle offerte dei migranti stessi. Ma è vero, dei trafficanti stessi. È vero che i prezzi degli scafisti si sono abbassati? Sì. Vuole dire, dipende anche dalla rotta. Un breve tratto ovviamente costa molto meno che il pacchetto all-inclusive, chiamiamolo così. Quello cui abbiamo assistito nell'ultimo anno e mezzo, due anni direi, è stato un ingresso nel mercato illegale di trafficanti amatoriali. Cioè chiunque aveva un piccolo battello, chiunque poteva, diciamo, si proponeva. Quindi abbiamo visto giubbotti di salvagente falsi che non funzionavano, battelli che affondavano, pescherecci vecchissimi che mai avrebbero solcato il mare, che venivano messi in mare. Ma si può dire più o meno quanto costa un viaggio verso l'Europa? Eh? Beh sì, va da poche migliaia di euro a parecchie decine di migliaia di euro. Se prendiamo un migrante che parte dall'Africa nera, quella subsahariana, certo, e fa la rotta per Agadez, arriva fino a Zuara in Libia e poi si imbarca, può spendere svariate migliaia di euro, 8-10 mila. Dipende quante volte sono respinti le frontiere, quante volte devono rifare la stessa tratta. Un grande classico della rotta balcanica, lo stiamo vedendo con i respingimenti da Macedonia in Grecia, è che molti migranti devono ripassare lo stesso frontiere, la stessa frontiera più volte. Certo. E a volte quel ripassare la frontiera vuol dire pagare altri 50-100 dollari. Non dimentichiamo che un anello debole nella rotta balcanica sono le pulizie, per la corruzione, insomma, di alti tassi di corruzione della polizia. Certo. Io stesso ho incontrato trafficanti che mi dicevano: io per portare i miei clienti, i migranti tra Serbia, Ungheria, eccetera, devo ungere i poliziotti. Ogni volta sono 50 euro, 100 euro, eccetera. Certo. Ma secondo l'Europol, l'anno scorso i mercanti di trafficanti di uomini hanno intascato tra i 3 e i 6 miliardi di dollari per far arrivare oltre 1 milione di profughi in Europa. Questi soldi a chi arrivano? Quali sono le mafie più organizzate? Cioè? Questa è una domanda da 6 milioni di dollari, cioè lo stesso business, cioè questa è una domanda che vale il business che cerca di indagare. Alcune sono mafie molto ben organizzate, vi sono diaspore insospettabili nel cuore dell'Europa, vi sono basi a Londra, vi sono basi negli Emirati, vi sono basi in Turchia. La Turchia è un nodo ovviamente fondamentale, ecco, la allora, porta d'Europa. Allora mettiamola così, Musumeci, in quali paesi europei sono i principali centri di controllo, di snodo di queste organizzazioni? Io al momento sto investigando su un grosso nodo in Romania, per esempio. L'anno scorso l'Europol ha identificato circa 10.700 sospetti, cioè persone che possono essere qualche... Chi sono? Beh, allora, se noi andiamo a cercare di risalire alle teste delle organizzazioni, sono persone che hanno denaro e hanno possibilità e sono molto spesso degli imprenditori veri e propri. Ah, proprio addirittura? Quindi, sì, beh, uno che ad esempio ha una flotta di yacht di lusso, può a un certo punto, perché fa crociere nel mare tra Turchia e Grecia, può decidere a un certo punto di riconvertire il suo lavoro. Certo. Faccio un esempio su tutti, ma come dire, sono i fattori della produzione che essi hanno a disposizione. Il grosso trafficante è quello che in un modo o nell'altro conosce le frontiere e sa passarle sa farle superare i suoi clienti. E quindi chi ad esempio ha, ma sto ragionando sempre per ipotesi, certo, non sto ovviamente additando nessuno, però per esempio un trafficante perfetto negli ultimi mesi, ultimi anni è stato o il tassista o l'autotrasportatore, parlo di quelli intra Schengen, perché sono abituati a passare i confini e quindi i migranti sanno come si fa. sanno certo, come si fa. Conoscono il poliziotto, conoscono, gli fanno prendere il caffè giusto al momento giusto, non so come dire. Certo, ma un'operazione militare in Libia, se ne parla sempre di più, prima dell'estate, potrebbe in qualche modo affrontare il problema o rischia di aggravarlo? A mio modestissimo parere credo rischi di aggravarlo, perché non è che i trafficanti uomini girano con la maglietta, io sono un trafficante di uomini, né, e si parlò tempo fa di distruggere tutti i pescherecci, tutte le barche, certo. Questa è un'altra follia, perché o distruggiamo l'industria della pesca del Maghreb, certo. Oppure tutte i natanti che vengono utilizzati, e vi ricorderete la storia dei cargo fantasma, perché ci sentimo anche su quella, sì. Tutti i natanti che vengono utilizzati per attività illecite hanno avuto una vita lecita. Noi come facciamo a sapere che stiamo distruggendo sì un peschereccio, ma che è stato rubato dai trafficanti a un pescatore? È molto difficile risalire la filiera produttiva criminale. Fare la storia. Ecco, ma sì. C'è un'alternativa all'accordo europeo con la Turchia? Cioè la Merkel ha ragione o torto a insistere molto? Qua voglio dire, non abbiamo la prova contraria. Certo. Il problema turco è che a me pare di risentire quell'accordo Italia-Libia del 2006 in cui Gheddafi usava i migranti come leva politica, certo. Rubinetto aperto, datemi soldi, rubinetto chiuso, funziona tutto. Certo. Il problema è in che condizioni rimangono i migranti in quei paesi e soprattutto se ci vogliono rimanere. Stiamo parlando di una massa di persone incredibile, quindi diciamo la mia vera paura è che si giochi sulla pelle dei migranti una partita politica che è su un secondo livello. Ecco, ma per chiudere, gli italiani che favoriscono l'immigrazione clandestina e sono coinvolti e ne traggono guadagno, che tipo di mafie sono o di persone sono? Allora, se parliamo delle mafie classiche, quindi di Sacra Corona, di quello che resta, certo. Camorra, 'Ndrangheta e mafia siciliana, loro non sono coinvolti direttamente nel trasporto e nel traffico stesso. È certo, un business che non gli interessa. Da quello che ho potuto intuire, stanno alla finestra a osservare e credo che vi siano barriere culturali e linguistiche insuperabili e si infilano dove possono, la mafia delle cooperative, la gestione dei centri d'accoglienza, lì hanno sono ferrate, sanno fare quello, quindi si infilano facilmente. Pensare che un mafioso siciliano di una cosca grossa si metta a parlare con un trafficante di Zuara e organizzi il viaggio, quello lo vedo un po' più difficile. Né i magistrati che ho sentito mi hanno, come dire, confortato in questo senso. Per il momento stanno alla finestra a guardare. Per cui abbiamo piccole cellule italiane, magari di grosse organizzazioni internazionali, molto spesso nei punti di arrivo e nei punti di transito, come Milano ad esempio. Pietrangelo, la Sicilia è la regione che accoglie più immigrati. In questi giorni ne abbiamo parlato molto, non solo per ragioni geografiche, però mi pare che ci sia anche dell'altro, una cultura che in altre parti del paese manca. È così? Sì, è così, anche perché appunto questa nostra settimana, prima con faccia a faccia con Rosi Fuocammare, poi ieri ascoltare le parole del dottore Bartolo, svelano una natura immediata che è dettata dalla condizione che è geografica ma allo stesso tempo spirituale di quella terra, che è universale proprio per definizione, è il luogo dove tutto il mondo si è dato appuntamento nel bene e nel male. Riguardo a quello che diceva adesso ultimamente Musumeci, vorrei però sottolineare come in realtà le organizzazioni criminali abbiano già intuito come il business più forte, più del narcotraffico, più di qualunque altro, siano le speculazioni edilizie o qual altra cosa possiamo immaginare, sia adesso quello dei trafficanti, del traffico di uomini, del nuovo mercato degli schiavi. E questo è il progetto su cui lavorano non solo i delinquenti comuni, ma anche le grandi strategie internazionali, perché se c'è stato un grimaldello che ha fatto saltare l'equilibrio di un continente, qual è quello europeo, è stato proprio quello delle bombe migratorie. È vero. Senti Mario, questa è una pagina di storia oramai, no? Beh sì. Abbiamo questo privilegio. Il privilegio di assistere a questa trasformazione. Tu c'hai per chiudere una canzone della tua playlist che sì. Ci può accompagnare? Eh? Sì, Elite Fima, Vivere il mio tempo. Questo gioco è un gioco d'equilibrio, devo solo faccio un po' la mano, perché stare nel mio tempo, viverlo da dentro. 24. Naturalmente è caldissimo il tema di cui abbiamo parlato, tante reazioni, tutti scrivono, ognuno ha un'opinione. Veronica ci chiede: ma quale ruolo gioca l'Albania, di cui si parla pochissimo? Ne parleremo, perché effettivamente l'Albania secondo me sta per tornare un pochino in campo. E se si chiude la via balcanica col blocco delle frontiere, dice Ulisse, la cooperazione turca non serve più, nascerà la via italiana. Insomma, è quello che abbiamo un po' detto, è il pericolo. Pietrangelo, cosa ci fai ascoltare oggi? Ecco. Might make out when nobody's there. It's not that we're scared, it's just that it's delicate. So why'd you feel my sorrows with the words you borrowed from the only place you've known? Allora, Pietrangelo? E allora stamattina tutti avevano un unico desiderio: che non ci fosse nessuno intorno e che nello stare intorno ci fosse solitudine per restare soli, un uomo e una donna, e baciarsi. Ed è solo una delicatezza che prende a prestito le parole e vivere come mai si è vissuto. Ha chiamato Onegin stamattina e ha voluto questa chicca e l'ha dedicata alla signora Rosselli con un messaggio: la neve è come l'inchiostro di china. Like never before, there's nothing to give. How can we ask? Mario, cioè, a proposito di musica, c'hai grandi estimatori come disc jockey. Sì. Maurizio Urbano dice che questa professione di disc jockey da parte di Mario mi piace, denota grande versatilità e cultura. No, è che siccome il giornalismo, sai, bisogna trovarci il prossimo mestiere. Insomma. Non si sa. Meglio avere un lavoro di riserva. Qua siamo tre ragazzacci, quindi non si sa che cosa succede mai. Quindi, se ci volete seguire nei vari club in Italia. Ma non avevi scelto il gregge? Non avevi adottato il gregge? Che torni, a fare il pastore. Sì, non sarebbe male. Senti, vabbè. Ma intanto che ci racconti dell'Iraq? Bello, forte. Grande, sì. Allora, Giovanni, stamattina, anzi nel primo pomeriggio alle 14.30, oggi ci sono un sacco di appuntamenti parlamentari, sì. Però ce n'è uno abbastanza interessante secondo me, e alle 14.30 in Commissione Difesa al Senato vengono ascoltati i comandanti delle nostre missioni in Iraq. Uno dice: abbiamo le missioni in Iraq? E sì, cari ascoltatori, e sono anche parecchie. Il tema è molto più importante di quanto si immagini. Non se ne parla granché, però la notizia è che noi non solo ci siamo, ma ci siamo tornati alla grande in Iraq, perché io ho un numero segnato sul taccuino. Noi abbiamo 1400 militari, tra quelli che ci sono e quelli che arriveranno, schierati tra il Tigri e l'Eufrate. Tanti. Moltissimi. Per darvi un'idea, nel pieno dell'operazione antiterrorismo, cioè di antica Babilonia, quindi pieno della guerra irachena 2003-2006, noi avevamo 3000 soldati. Quindi noi oggi con 1400 abbiamo un contingente che è la metà di quello schieramento, quindi una cosa molto forte. Tanti. 750 a Baghdad. Ne abbiamo Erbil in Kurdistan e in Kuwait. A questi vanno aggiunte 130 unità che arriveranno adesso in Erbil, e poi arriveranno quelli che devono fare il controllo, diciamo, militare dell'area, cioè di Mosul. Primo contingente che si avvicina alla Libia. Insomma, noi non è che non la facciamo le cose, alla fine le nascondiamo, le mascheriamo, ma in realtà le facciamo. Cioè, agli americani abbiamo dato una grande mano. Obbediamo agli ordini. Salamino. Pasqua con chi vuoi, nei musei però non puoi. Tarantella. Altro che Mauro Felicori, il direttore della Reggia di Caserta, che lavora tutti i giorni, compresi Natale, Pasqua ed Epifania. Faranno Pasquetta i 1400 custodi in Sicilia, 1000 regionali e i restanti 400 della partecipata regionale. E insomma, questi musei li terranno chiusi perché da un bilancio di 19 miliardi di euro si è perso, tra i tagli fatti dalla politica regionale, 1 milione per pagare gli straordinari. E il risultato della settimana prossima sarà uno: musei chiusi, chiusi anche i siti archeologici, e perciò niente Selinunte, niente Segesta, niente Valle dei Templi. Si va, insomma, verso il flop di Pasqua e l'economia e il commercio della Sicilia. Sono male bruscole. Insomma, dicevo che appunto tutta la situazione della bilancia economica e commerciale della Sicilia va verso il bilancio più nero. Chiusi anche i parchi. Logica vuole. Cosa vuole la logica? E faccio appello a quella terra dove comunque ci sono stati i logici. Logica vuole che gli operatori turistici lavorino quando gli altri sono in vacanza, ma non è così in Sicilia, dove Pasqua e Pasquetta diventa feria perfetta per i custodi e castigo invece per i turisti, che si vedono negata la possibilità di godere di bellezza, di cultura, di arte. Insomma, è come immaginare che in Francia nei giorni della villeggiatura non ci sia la possibilità di vendere lo champagne. È come se l'Egitto, non potesse garantire ai visitatori le escursioni alle piramidi o i soggiorni a Sharm el Sheikh, cosa che effettivamente accade perché il Maghreb è teatro di guerra, ma non è, grazie a Dio, teatro di guerra la Sicilia, però palcoscenico di buffoneria, quello sì. Un esempio, un tour operator inglese ha dovuto cancellare i contratti con la Sicilia perché, telefonando all'assessorato regionale, non riuscivano ad avere gli orari di apertura dei musei. Ora, fuor di retorica, uno che dice è petrolio, però va da sé che un povero cittadino italiano gli viene più facile andarsene alle Baleari piuttosto che in Sicilia, tanto sono, come dire, vampiri le compagnie aeree. Però un esempio di così conclamata inettitudine fa gridare all'emergenza, ed emergenza è. Io l'ho fatto già sul Sole 24 Ore la scorsa volta a proposito dei teatri, adesso lo ripeto a voce qui: urge l'intervento di Dario Franceschini, il ministro dei beni culturali, perché è emergenza e non si può lasciare la Sicilia ai siciliani, sono solo guai. Bisogna togliere. E mi permetterete a questo punto di rivolgere un invito al viaggio. Ti invito al viaggio in quel paese che ti assomiglia tanto. I soli languidi dei suoi cieli annebbiati hanno per il mio spirito l'incanto dei tuoi occhi quando brillano offuscati. Mario, sì. Allora c'è ancora una bolla. Sì, una canzone che ha un significato. Maria grande. Dice però che avete tutti e due un futuro da DJ. Tu il DJ, ma le poesie di Buttafuoco è più musica della musica. Quindi, capito? Quindi, potete fare lo spettacolo insieme. Pietrangelo farà i cosiddetti reading e io farò il listening. Dai. Io ringrazio la nostra ascoltatrice, però ai noi, se dobbiamo seguire l'indicazione che dava Mario nel futuro. Nei clubini, no? Andiamo. Purtroppo Carmina non dà pane. No, ma insieme la musica, vai con la tua bolla. Va bene, vai. Vabbè, allora vediamo la pubblicità e poi la bolla. Mix 24. I went to the theater to see a ballet. Then and there I decided that to be a dancer. Un giorno sono andato a teatro a vedere un balletto e quel giorno ho deciso di diventare un ballerino. Così, semplicemente, Rudolf Nureyev, un grande artista, un geniale anticonformista, un indomabile ribelle. Nato sulla Transiberiana il 17 marzo del 1938, cresciuto in una regione sperduta dell'Unione Sovietica la Baschiria di Gengis Khan sceglie di diventare cittadino del mondo. La sua fuga in Occidente diventa per la stampa internazionale uno dei capitoli più glamour della Guerra Fredda. È il 17 giugno del 61. All'aeroporto francese Le Bourget, Rudolf abbandona la compagnia del Kirov e chiede asilo politico. Da pochi mesi Gagarin ha compiuto il suo volo nello spazio, regalando all'Unione Sovietica un primato importante. La scelta del tartaro volante è uno smacco che il suo paese non dimenticherà. Rudolf Nureyev, i trionfi sul palcoscenico, i misteri di una vita. Qui a Mix 24, il giallo della storia dopo il giornale radio. Mario, ancora una bolla? Sì. In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu, e l'immensità. Allora, abbiamo scelto questa canzone di Lucio Battisti per un momento molto, molto particolare. Secondo me oggi è una data importantissima, che si dice sempre va studiata. Io penso che vada ricordata. È 16 marzo 1978, agguato di Via Fani, Aldo Moro viene rapito dalle Brigate Rosse, 5 uomini della sua scorta vengono uccisi. È un momento drammatico della storia della nostra Repubblica, il più drammatico sicuramente dal dopoguerra. Io ero piccolo, avevo solo 10 anni, ma ne ho un ricordo indelebile, come credo tutti te, noi. Giovanni e Pietrangelo. Io ero già al pezzo. E tu eri già al pezzo, cosa facevi allora? Facevo mixer. Facevi mixer, insomma. E abbiamo un pezzo di storia della televisione da far ascoltare. Lo facciamo ascoltare? Sì. Vai. Adesso vediamo il primo servizio sul rapimento di Moro avvenuto un'ora fa. Il tempo per far partire le immagini. Via Stresa, una strada in una zona residenziale di Roma, via La Camiluccia, sono le 10:10. Siamo appena arrivati sul luogo dove è avvenuto l'assalto. I carabinieri della polizia stanno girando. Ci sono molte automobili, ambulanze, infermieri, andiamo ad avvicinarci per cercare di capire meglio le cose. Ecco la macchina con i corpi degli agenti che facevano parte della scorta dell'onorevole Moro, coperti da un telo. Dolce compagna che... Erano le 10:10 anche quel giorno, sì, come oggi, lo ripeto, il 16 marzo del 78. E per chiudere, Gloria Guerrera, cosa ha scelto questa mattina per noi, anzi per voi? Questa è una domanda che sono sicura ci siamo posti tutti almeno una volta. Chi in silenzio, chi a squarciagola? Pino Donaggio, Io che non vivo. E tu mi vuoi lasciare? Prego.